Andiamo, andiamo. Siamo pure. Stanno a spiare dietro le finestre a mezz'asta, la strada grida basta, c'ha di nuovo paura e si barricano dentro la loro casa scura, ostili e inariditi, ben pensanti, sterilizzati, si credono sani e forti e invece son già morti. Stanno a sbirciare dietro le tendine abbrunate, tenendosi abbrancati al comò della roba. La roba fu il compare dei loro matrimoni, nel letto hanno accoppiato soltanto patrimoni, e i figli come i padri prodotti d'interesse, li aspettano morire e adocchiano la messe. Ma provate ad uscire per imparare a vivere da quelli che si danno per amore, da quelli che si bevono anche il cuore. Rivoluzione sia e guerra alla società. Privi di reazioni, di dubbi, di emozioni, bevono a piene mani la vita dei gerani, e più invecchiano e più rinfrucciano sotto i comò tarlati, inutili e spauriti, quasi quasi ti sembrano miti, ma rieccoti la morsa se gli tocchi la borsa. Basta un vento leggero che, spirando verso il largo, li costringa a guardar fuori dall'oblò del loro letargo, ed eccoli censori, soloni e giustizieri, per fare di domani la proprietà di ieri e fiutare inorriditi l'aria di cambiamenti e far quadrare i conti assoldando i violenti. Ma provate ad uscire per imparare a vivere da quelli che si godono l'amore, da quelli che regalano anche il cuore. Rivoluzione sia e sia felicità, cercate almeno di prendere l'ultimo treno che la vita vi dà. Imparate. Arrenditi, mi arrendo. Allora, mi chiamo Ilaria, io farò alcune letture da estratti del libro che andiamo a presentare questa sera. Intanto grazie di essere qui. E allora cominciamo. Con la nostra avventura, noi comontisti non solo abbiamo per un interminabile attimo creato il nostro mondo, così da non dover morire in quello altrui, ma abbiamo disegnato le vie maestre, in crocevia, i panorami di un mondo che, pur non esistendo ancora, continua a mantenersi aperto e ospitale per chiunque vi si voglia accostare, in ogni epoca, in ogni luogo. Abbiamo provato a disegnare un mondo e una maniera di stare nel mondo, e abbiamo invitato tutti quanti a disegnarlo insieme con noi, e tuttavia ciascuno a modo proprio. Un invito che forse non siamo stati sufficientemente abili a presentare e che solo in modesta misura è stato raccolto, ma che tuttavia continua a rimbalzare nel presente senza mostrare cedimenti che facciano presagire un suo prossimo appassimento. Quello che non può essere negato è che noi comontisti abbiamo appreso dalla nostra esperienza un modo particolare di pensare, di agire, che ha gettato le basi per un modo particolare di non obbedire e di non comandare. Coromantismo è stato il modo che abbiamo trovato, un poco scelto, un poco inventato, un poco ricevuto in dono, per fare di noi stessi dei soggetti all'altezza delle nostre passioni. Tantissimi non ci hanno neppure sentiti nominare. Eppure è sufficiente che si imbattano in qualche traccia lasciata qua e là, perché prontamente riconoscano le potenzialità di quel progetto, potenzialità che ancora incessantemente reclamano di essere sviluppate e arricchite. Anche se in questo momento nessuno l'abitasse, la libertà comunista rimarrà sempre lì, in attesa di nuovi avventurieri, per portarvi il disordine, l'imprevisto, la scommessa, la minaccia, il tempo che passa e la coscienza del suo passaggio. Come le stelle cadenti che tracciano di luce la notte, senza scopo e senza necessità, per il piacere di esserci state per un momento. Anche quando, e forse non ci vorrà poi molto ormai, delle nostre persone nessuno si rammenterà più. Come ha preconizzato di se stesso un compagno, passato anche lui in fretta, ma senza abbandonarci davvero. Perché noi, al di là di ogni schiavitù e di ogni dogma, vedemmo danzare libera e nuda la vita. Credo che queste siano esattamente le parole con cui si chiude il testo di Paolo. È il testo che lui ha lasciato. Mi sono domandata se fosse stato un caso che fosse quasi pronto e non del tutto per dare a me questa occasione che mi ha aiutato, mi ha sfidato a uscire dal tunnel di dolore in cui mi sono ritrovata alla sua ripartita, perché l'avevamo riletto era quasi praticamente pronto. Poi non lo so, magari c'erano anche delle cose che lui voleva spostare di qua e di là, insomma io ho dovuto prenderlo quando ne ho avuto la forza, e come ho promesso ai ragazzi di Nautilus, anche per rispetto del grandissimo lavoro fatto, perché prima di tutto questa è una presentazione ma è un ringraziamento a chi da anni e anni lavora attorno a questo progetto, che è cominciato nel 2007 quando eravamo ancora quasi tutti vivi, e grazie al lavoro di tanti, di tutti, si sono raccolte queste tracce sparse, queste piccole perle che sono andate un po' a rotoli in giro, ma lo sforzo di raccoglierle dai cassetti eccetera, dalle rimembranze di ciascuno, perché una volta Paolo, mi ricordo, diceva no, c'è proprio bisogno, guarda questa libreria, è piena di libri su tutti gli argomenti sulla nostra area non ci sono, quindi nessuno scriveva di queste esperienze, che è vero che sono state limitatissime nel tempo, molto anche osteggiate, ma proprio per quello erano significative, perché è significativo che dopo tutti questi anni, che sono veramente tanti, ormai sono vari decenni, questo discorso abbia ancora una vitalità sorprendente, perché io vedo come tocca le persone, soprattutto giovani, perché è un discorso senza infingimenti, senza compromessi e anche senza illusioni, però è un invito a prendere per davvero sul serio la propria voglia di vivere, di giocare, di sentirsi per sempre giovani, che è un po' il destino che noi siamo stati fortunati, questi che abbiamo vissuto nel 68 e abbiamo avuto questa possibilità, insomma, di sognare in grande, di sognare in tanti, e nello stesso momento anche fare delle sperimentazioni che oggi si vorrebbe tantissimo che ricominciassero un po', perché ce n'è tanto bisogno che le persone vivano in prima persona, abbiano la felicità che alla fine è l'unica cosa che veramente si vuole ricevere, si vuole regalare, una felicità che riguardi tutti e che riesca a permeare un mondo che altrimenti non è altro che un albergo per l'economia, no? Mentre c'è tutto il resto, c'è veramente tantissimo di tutto il resto da creare, da suggerire, da giocare, da rischiare. E vivere con Paolo è stata in effetti un'avventura meravigliosa, contemporaneamente una grande prova, perché quando io l'ho conosciuto era uscito a scadenza e gli aspettava da fare ancora almeno 2 anni mi ha detto: io sono disperato. E io gli ho detto: io non mi tiro indietro, perché mi fa: ma adesso cosa sarà di noi? Perché noi ci siamo innamorati subito, quindi era già successo che appena conosciuti ci siamo innamorati. A quel punto come si faceva? Dovevamo prenderla questa sfida, ed è stata una vita così movimentata a dir poco, eppure c'era questa passione comune, chiamiamola, per la rivoluzione, ma comunque non tanto per una rivoluzione come la leggi nei libri, no? Ma come volevamo appunto che fosse vero per tutti in ogni momento della vita. E quando io, che ragazza ero stata invitata da Roby a Comontismo e mi ero ritratta, perché a causa dei pregiudizi che avevo subito adottato del Joe Fallisi, che mi ha detto: sono una setta, così io sono andata, mi sono sentita troppo osservata, troppo messa in mezzo, e sono fuggita a gambe levate, perché ho detto: non è per me. Però erano tutti amici miei già allora, quindi l'ambiente era quello, le idee erano quelle, la voglia di sperimentarsi così duramente, senza mediazioni, cioè rischiando veramente non avere più neanche, come era in Comontismo, perché poi Paolo me ne ha abbondantemente raccontato, non c'era un momento di privacy, un momento di pace, si era continuamente pungolati a fare di più, a fare di più, a continuare alla ricerca di questa radicalità estremista, estrema o comunque totale, no? Quindi dopo questo lavoro, che tutta la vita è durato, di riconsiderare quello che era stato tentato, oltre che di tentare ancora tutto il resto, e alla fine per fortuna è riuscito a mettere giù queste riflessioni, nonostante tante distrazioni che uno ha, è riuscito a lasciarle, e io mi sono misurata col fatto di riordinare, e sono contentissima che siamo arrivati qui, che il libro è un oggetto che, a parte il testo di Paolo ovviamente, c'è il testo di Claudio e c'è il testo bellissimo di Leonardo, che è la cronistoria ragionata, molto molto utile, molto ben fatta, come almeno come il primo volume. E comunque, insomma, dal mio punto di vista è anche per me una cosa che mi dà gioia. E poi c'è tutta la documentazione che giustamente è stata trasferita su questa carta e che quindi è a disposizione, oltre che naturalmente sul sito, dove troverete sempre anche tutto il resto, anche quello che non è stato ricopiato e stampato, perché si è espanso moltissimo, infatti di tomi ne sono venuti 2 e sono 878 pagine. A questo punto vi lascio la prossima lettura. Allora, no, è che mi ha chiesto che fossi io. Scusa. No, vai tu. No, è giusto, ho sbagliato io. Sì, ho quello là. Dobbiamo cadere in questa cosa tecnologica. Ho sbagliato. Ora come va? Meglio. Vero, bello. Allora, individuo e massa. L'individuo è tale solo se è libero, e la libertà esiste unicamente come spazio condiviso fra molti. L'autonomia del singolo si esplica efficacemente solo nella contesa con le autonomie altrui, dalle quali, ricava come da uno specchio la consapevolezza dei precisi contorni della sua fisionomia nel mondo, dello spazio che occupa, come pure dei limiti di questo spazio. Uno dei trucchi più utilizzati e rilanciati poi da torme di insipienti di buona volontà e di cattive letture per intralciare il processo di autoliberazione è quello di contestare alla presente società un eccesso di individualismo, laddove viceversa si tratta da sempre, sempre di più, di una società di massa, nella quale i confini fra l'uno e l'altro, vale a dire i confini fra i corpi, si confondono e si mischiano. L'individuo infatti esiste realmente solo in dialettica materiale con altri individui, ha necessità di separarsi da essi, di stagliarsi unico rispetto a loro. Quindi questo processo diviene possibile solo in opposizione con l'isolamento miserabile cui si è condannati dall'universo delle sembianze. Occorre scoprire i nessi della presente socialità per edificare un'antisocialità che li stia alla pari, che si riveli all'altezza della sfida. Dalle masse non ci sarà mai da attendersi nulla di buono, perché la loro forza consiste nella compattezza e nel numero, mentre la libertà è sparpagliata, è non cumulabile. Il secolo XX è stato il secolo delle stragi più di ogni altro precedente, perché è il secolo delle masse. Affermandosi il capitalismo, che è il culto della quantità, anche in questo campo ci si è adeguati. Basta uno. Dico, non sono l'ONU. No, la prima cosa che devo dire è che mi impressiona, mi rallegra la presenza di tutti voi, e confesso che se avessimo fatto una riunione di tutte quelle che abbiamo fatto 50 anni fa non c'è mai stata così tanta gente come c'è stasera, cosa che è abbastanza curiosa. Bueno, in primo luogo dedico queste parole alla memoria dei nostri compagni che non ci sono più, però particolarmente a alcuni che proprio sono mancati da poco e devo menzionarli, cioè Alfredo Passadore, Marco Colombo, Paolo Ranieri, Roberto Ginosa e Tito Pulcinelli, che se n'è andato poche settimane fa. Mi scuso per gli spaglionismi che noterete nelle mie parole, ma dopo 40 anni che vivo in Messico me lo dovete perdonare. Una cosa che posso dire è che io sono entrato come Paolo in comuntismo nel febbraio del 72 e in realtà credo di non esserne mai uscito, perché la persona che sono, che può sto sulle scatole a molta gente, però quella persona lì, cioè, è nata in quel periodo, per cui io mi sono fatto in quegli anni. E l'altra cosa che devo dire è che appunto questa, io sono qui quasi per caso, non pensavo in realtà all'inizio quando ho comprato il biglietto che il libro al quale comunque ho collaborato sarebbe uscito in questo periodo che coincide con il mio viaggio, in realtà ne sono contento. Per me questa presentazione è il libro, è la celebrazione di un'amicizia, no? dell'amicizia tra tutti noi, e questa è la cosa più importante, perché malgrado il mezzo secolo che è passato, tutte queste persone che ho menzionato e quei pochi che siamo vivi, anche se come si noterà presto non abbiamo le stesse idee, siamo rimasti amici in maniera fraterna e continueremo così. In realtà non corrisponde a me valutare la importanza o l'assenza di importanza secondo i punti di vista della nostra esperienza. E quello che io cercherò di mettere a disposizione in questo momento sono alcuni ricordi che più o meno poi è quello che ho scritto nell'introduzione al libro, no? Che non è un discorso teorico, perché il discorso teorico c'è Paolo e ci saranno i suoi critici. Io non ho la memoria di Paolo, però curiosamente poi nella ricostruzione dei fatti è risultato che le persone che siamo sopravvissute a queste storie, ovvero Maurizio, qui presente, Marilena Moretti e qualcun altro ed io, degli stessi avvenimenti avevamo dei ricordi completamente differenti, ma complementari tra di loro, per cui alla fine, soprattutto nella raccolta dei documenti, siamo riusciti a mettere insieme qualcosa di più o meno accettabile. Allora, quando è che ho conosciuto Paolo? No? Che per me la storia comincia da lì. Paolo ed io ci siamo conosciuti nel marzo del 1968 all'occupazione del Parini. Come molti di voi che ci conoscete e sapete, eravamo tutti del liceo scientifico Vittorio Veneto, ma eravamo andati allora, 1968, c'era la storia del Parini, la zanzara, ed eravamo andati lì a manifestare la nostra solidarietà. E la cosa divertente è che sia Paolo che io eravamo abbastanza, diciamo, corpulenti, per cui all'ora di portarci fuori, era un sit-in, ci hanno dovuto sollevare in due, tutti gli altri bastava uno, no? Ed è così, forse è così che siamo diventati amici, e la nostra amicizia è durata 50 anni, 9 mesi e qualche giorno, no? fino a che lui è esistito. Poi vabbè, c'è la storia di Lud, Paolo ed io abbiamo la stessa età, siamo del 52, però lui in realtà era abbastanza più sveglio di me, e la mia partecipazione in Lud, a differenza della sua, è stata molto marginale, però anche lì per me è stata una esperienza fondamentale. Peraltro io l'ho criticato quando ha fatto il primo volume, perché non ci menziona né a me né a Dario Cerboni qui presente né altri che eravamo, come direbbero gli zapatisti, le basi d'appoggio, no? Però questo mostra che non erano solo sette intellettuali, ma era un movimento che aveva delle basi che si estendevano perlomeno una trentina di persone alla scuola nostra, no? E niente, e quindi poi venne il gruppo che facemmo insieme, che un nome abbastanza ridicolo ripensandolo oggi, che si chiama Consiglio per lo smantellamento del vecchio mondo, che sì, eravamo tra l'ironico, ma di ironia ce n'era poco, più che altro eravamo megalomani, e sì, anche un attimo ironici, però niente, lì diciamo ci siamo fatti le ossa tra virgolette scrittori, perché per molto tempo noi siamo stati soprattutto bravi per scrivere dei volantini, cioè abbiamo la mentalità, abbiamo acquisito, diciamo, allora la mentalità degli agitatori, cosa che io uso parecchio adesso che lavoro all'università, per rompere le scatole alla gente in Messico, per quello che dico che non sono mai uscito dal comuntismo, perché ho imparato allora certe cose. E vabbè, Maurizio ha scoperto nel suo prodigioso archivio, che nessuno conosceva, che teneva rigorosamente nascosto, i volantini nostri di questo fantomatico, perché poi Paolo dice no, consiglio no, era comitato, perché comitato è più modesto, aveva ragione. E poi qui siamo nel 71, 70-71, cioè dopo la dissoluzione di Lud. Paolo cercava complici e trovò noi, Dario, me stesso e altri compagni che non ci sono più, come Maurizio Pedrinella e un altro compagno, Alberto, non sappiamo, abbiamo perso i contatti con lui, speriamo che sia vivo, però eravamo questo gruppetto che facevamo casino. Abbiamo, a un certo punto abbiamo fatto un volantino che si chiama Contro il potere della merce tutto a sacco, che e abbiamo distribuito alla fiera di Milano, e che è costato, non ricordo più, io l'ho scrivato, ma forse tu ricordi chi andò a finire in tribunale per istigazione all'incendio e non so quali altri delitti. Però diciamo, questi volantini, considerando la mentalità di allora, ci dettero il passaporto, la presentazione per entrare in comuntismo, io credo, perché erano tempi in cui la gente era valutata per queste cose qua. E in effetti il primo nostro incontro con comontismo fu, l'avevo discusso con Paolo, non eravamo sicuri delle date precise, ma diciamo fine del 71, andammo a Genova e conoscemmo la sezione genovese di comontismo che stava in formazione, ovvero Alfredo Cadonna, la sua donna Yolanda Bison, Alfredo Passadore e Bianca Molinelli, e c'era anche Riccardo, che io non conoscevo, che conobbi allora. E poi andammo a Ponte Aegola in una visita fugace, loro stavano già più o meno smantellando la comune, che poi forse molti di voi hanno visto il fondamentale documentario di Marilena Moretti, che si chiama La rivoluzione non è una cosa seria, perché era la scritta che c'era quando uno arrivava e vedeva la rivoluzione non è una cosa seria. E alla fine, verso febbraio, ci fu una riunione a Torino, in un bar che sicuramente Paolo si ricorderebbe il nome, io non me lo ricordo, però tipica riunione che poi si riprodusse in molte altre situazioni, che tu come ti collochi, cioè, ci facevano, noi eravamo gli unici sconosciuti, no? o appena conosciuti, e quindi eravamo oggetto di un interesse particolare, perché lo stile era quello di chiedere, vabbè, sei d'accordo? Perché immediatamente noi siamo d'accordo, eccetera, eccetera, no? Ah, siete d'accordo? Allora venite a vivere con noi. Io che volevo scappare di casa, che avevo 19 anni, perché allora si era maggiorenni a 21, e non aspettavo altro, ho fatto la valigia e il giorno dopo sono andato a stare in via Giacosa. E Paolo, che in realtà aveva un rapporto complicato con la famiglia, mantenne per un certo tempo un piede qui, un piede di là, però sostanzialmente lui stesso andò a stare a Torino, in questa casa mitica in via Giacosa, dove cioè, successero varie storie disdicevoli, fra cui i primi arresti, perché facevamo volantini che contenevano ognuno vari reati. Immediatamente venne arrestato, finì sui giornali, mia mamma quasi le dà un infarto, eccetera, eccetera. E poi, cioè, è breve la storia, perché in realtà comontismo è durato un anno. Dopodiché io scoprì che non avevo molte affinità con i torinesi, no? E che i miei amici erano il qui presente Maurizio Pincetti e Roby Ginosa, che appunto ci conoscevamo dalla scuola. In particolare Roby era un personaggio quasi mitico, perché era più, lui è coetaneo di Roby, io sono 2 anni più giovane. Però Roby aveva introdotto, attraverso Eddie, suo fratello, che molti di voi sanno chi è, le idee situazioniste, socialismo barbarì, Castoriadis, che non sapevamo che si chiamasse Castoriadis, era Paul Cardin, eccetera, eccetera. E quindi io sentivo che i miei compagni stavano a Milano, mi trasferì a Milano e facemmo il famoso volantino, opera del mio amico qui presente, che secondo me è uno dei migliori della nostra produzione, un volantino sul 1° maggio distribuito il giorno 2, perché tutti danno volantini il 1° maggio, è troppo banale, no? Per cui lui aveva trovato un manifesto dell'epoca fascista, che dell'Alfa Romeo, no? Che diceva Alfa, no? La fabbrica, diceva al lavoro fedeli arditamente. E 1 maggio al lavoro fedeli arditamente. Poi, dall'altra parte, avevamo solo scritto un rito per tornare con più vigore al sacrificio, e non era l'unica cosa. Quindi, in realtà, secondo me, quello è un volantino. Sì, non siamo i primi a averlo. Aver fatto cose del genere le facevano i dadaisti 50 anni prima, però nell'ambito di quegli anni, che erano, perché adesso passano quegli anni, in parte lo furono come anni di libertari, i situazionisti qua e là, però in realtà c'erano i gruppi marxisti all'inizio, facevano due palle così, con testi illeggibili sulla caduta tendenziale del saggio del profitto, il servire il popolo e altre menate. Noi facevamo sostanzialmente facevamo i provocatori, ed è quello che mi è rimasto in qualche modo da allora, è quello che è tuttora rivendico. E niente, poi venne il momento più solare, possiamo dire, dal mio punto di vista, del gruppo a Firenze, perché a quel punto lì avevamo una sede a Firenze e a Firenze in qualche modo ci ritrovavamo tutti. Arrivò Tito Pulcinelli, del quale eravamo amici e che da allora, nel mio caso particolare, mi ha unito anche lui, con lui un'amicizia cinquantenaria, e siamo andati a finire insieme in America Latina, eccetera. E lì arrivò Tito, arrivò Angelo Della Savia, arrivarono vari personaggi, no? E lì veramente è stato il momento di comunione, si può dire, in cui queste frasi di Paolo che abbiamo ascoltato, che Paolo è un grande scrittore, cioè bisogna dire la verità, non è uno scrittore facile, ma c'ha le sue queste cose che dice, queste riflessioni sono al tempo stesso poetiche e sovversive e cristalline, no? Si può dire che esagera, beh, d'accordo, sicuramente lo dirà lui, però prima che lo dica lui, prima che lo dica il mio grande amico Maurizio, cioè io dico, certo esagera, ma cos'è, devo scrivere o doveva scrivere Paolo per deprimere la gente? Si trattava di agitare, per cui ancora adesso Paolo, che anche lui non è mai uscito dal comuntismo, scriveva per agitare, e quindi così bisogna interpretare le frasi. Approfitto per dire che il libro, allora forse vale la pena di spendere un paio di parole sulla struttura del libro, perché come ha detto Giulia sono due volumi, no? Uno raccoglie le... due tomi, chiedo scusa, due tomi. Il primo è quello che ha scritto Paolo, c'è una piccola introduzione mia, e appunto sono più o meno queste robe che sto dicendo. Però il senso di quello che scrive Paolo non è di fare la storia di comuntismo. In realtà la storia di comuntismo la fa perfettamente Leonardo Lippolis, che è un notevole storico, preciso, eccetera, no? Quello che fa Paolo in questo libro su comuntismo è un andare e venire tra passato e presente, in cui coglie gli spunti del presente per parlare del passato e gli spunti del passato per parlare del presente, per cui lui si rivolge, in realtà non si rivolge, per fortuna non si rivolge a noi che siamo i suoi compagni, bensì si rivolge a un lettore ipotetico interessato negli affari della vita, che può essere motivato, diciamo, che può scoprire attraverso la lettura di questo libro qualcosa che ha a che vedere anche con la sua vita di adesso, e in questo rimane assolutamente fedele allo spirito comuntista di quell'epoca, no? Vabbè, quindi questo è quello che voi troverete nel libro. Il secondo tomo è la raccolta di documenti, che è interessante, cioè io stesso alcuni, innanzitutto no, né io né Paolo abbiamo partecipato all'esperienza, perché siamo milanesi, dell'organizzazione consigliare. Il libro raccoglie praticamente tutta la produzione, che è una produzione interessantissima, la rivista Acheronte, il famoso testo con il quale ricordo che Paolo e Dio verso l'abolizione di ogni codice, scritto da Panco Ghisleni, demmo un esame di filosofia del diritto all'Università Statale di Milano su quel testo lì, 30 per entrambi, no? Cioè erano altri tempi, però sono documenti che oltre ad avere un valore storico sono interessanti da leggere, quindi il libro è strutturato così. Tornando a questi brevi ricordi, dicevo, il momento di Firenze, che dura tra marzo e giugno del 72, quando vari spiriti ribelli, diciamo, si trovarono a Firenze, è il momento in cui riusciamo meglio, diciamo, fare quello che volevamo. E cos'è che volevamo? Volevamo agitare. E come lo facevamo? Alla maniera molto tradizionale, attraverso dei volantini, e andando alle manifestazioni, cercando di radicalizzarle. Ricordo che lo cito nel mio testo, c'era una manifestazione perché Almirante arrivava Almirante, non so, i giovanotti non si ricordano, è finito giustamente nel cesso della storia, però era il capo dei fascisti, no? per decenni, che veniva dalla Repubblica di Salò, per cui si aspettava una reazione, diciamo, vigorosa della popolazione locale. Noi non eravamo pervasi, anche per il nostro bordighismo, che poi Paolo critica duramente, non eravamo partecipi dell'ideologia antifascista. Altra parentesi, oggi criticata per i motivi sbagliati, no? Per cui meglio essere antifascisti che fascisti, evidentemente. Noi eravamo per la rivoluzione, per cui l'antifascismo ci sembrava troppo poco. Però partecipammo perché sapevamo che ci sarebbe stato così. In effetti è la manifestazione più violenta che io ricordi, no? Con barricate, una roba micidiale, caroselli della polizia. E Paolo, che non era, tutto era meno grande scrittore, pensatore, ma non un atleta, e quella volta lì scoprimo le sue doti di corridore, perché scappava a gambe levate e riuscì a seminare poliziotti e celerini, diciamo. E poi, verso la fine dell'esperienza di Firenze, ovvero verso giugno, quello che successe l'inevitabile, che c'erano praticamente due anime, l'anima torinese, che potremmo tra virgolette definire l'anima teppista, no? Ovvero Riccardo, Carlo Ventura, Paolone, Paolo Turetta, detto Paolone, e altri. E noi eravamo l'ala più, come ci definiamo, Mauri? Cioè, meno esagitata, potremmo dire, forse è giusto? Molto meno esagitata, meno esagitata, direi. Lui dice molto, insomma, una roba così. Però soprattutto eravamo amici, e poi l'amicizia fra l'altro fiorì grazie anche al fatto che ce ne andammo. Ci fu una riunione a Praga Nero, Carlo Ventura, personaggio peraltro stupendo, che nel libro viene descritto molto bene, cioè una persona generosa, coraggiosa, profonda, uno che aveva il senso dell'amicizia, e che peraltro era un mito, perché Carlo Ventura era l'uomo dei topi, non so se qualcuno forse ricorderà, era finito sui giornali perché lui lanciava i topi contro i poliziotti, quando c'erano i topi morti che lui stesso cacciava, no? Nella Dora, mi sembra, non mi ricordo in che fiume, ed era finito nelle prime pagine dei giornali. Fra l'altro il libro è interessante, il secondo tomo, perché raccoglie anche alcuni titoli di giornale che Marilena poi aveva raccolto per il suo documentario, per cui ci sono, e fa morire dal ridere le imputazioni contro l'organizzazione consigliare. E vabbè, però noi eravamo milanesi, e quindi dopo un'estate movimentata, in cui loro sono andate a finire in Irlanda, io, siccome amavo la montagna, sono andato a fare la guida alpina, pesavo 20 kg meno di adesso, e poi ci ritrovammo in autunno a Milano, e lì si apre la tappa milanese di comontismo, perché noi milanesi volevamo mostrare che eravamo tanto comontisti come gli altri, anzi più comontisti, e che quindi meritavamo il loro rispetto. Ma curiosamente, sia Paolo, cioè avevamo rotto, eravamo arrivati praticamente alle mani, però sia Paolo che Carlo Ventura ci venivano a trovare di nascosto, perché in teoria non potevano vederci. Cioè, sì, Paolo Ventura perché doveva venire a scopare a Milano, no? Però ci può, cioè, d'accordo, per non essere così malizioso, non essere materialista, era che aveva una fidanzata sì, a casa nostra, sì, sì. Per cui, cioè, però ci portava i cappuccini, cioè era gentile, sì, sì, era gentile. E Paolo anche lì soprattutto lo vedevo io, perché appunto siccome era ribelle anche in quello, noi eravamo mal visti, però tra Paolo e Dio non si poteva dare la rottura. Vabbè, e quindi quell'autunno lì producemmo forse il testo più lungo che abbia prodotto comuntismo, Contratti o Sabotaggio, che uno qualche non anno noi, fa... non noi, come Robigi. Lo stavo per dire, Cioè, una sera, era qualche anno fa, ero in una di queste cene pantagrueliche che alcuni presenti conoscono, e a un certo punto si parla, non so come, di contratti di sabotaggio, e Roby dice, ah sì, contratti di sabotaggio, l'ho scritto nell'autunno del 72. Maurizio ed io ci guardavamo profondo negli occhi, porco Dio, cioè... È un testo veramente scritto a sei mani, no? E fra l'altro io mi ricordo molto di più di averlo scritto con Maurizio, che mi ricordo sì, poco. Vero, perché, semplicemente perché noi lo scrivevamo insieme, praticamente. Sì, lo scrivevamo... Nel suo caso c'erano dei pezzi che poi venivano incastrati. Sì, è così. Però l'abbiamo scritto a sei mani. Sì, lo scrivevamo a casa sua perché in via Becchio c'era troppo casino, perché non si poteva lavorare, c'era solo Fulvia... che aveva fatto, nessuno ha mai capito come è riuscita a dare in mezzo a questo casino la gente che si faceva le pere, quelli che si ne facevano vari reati diciamo del codice penale, e lei preparava la maturità e l'ha passata, cioè questo mostra che era una comunità abbastanza articolata, no? E vabbè, da quella casa lì, ah sì, no, bisogna raccontare anche come l'abbiamo presa la casa, perché evidentemente nessuno affittava una casa ai comuntisti, no? Cioè, e quindi l'unica maniera per affittare una casa era pagare un anno anticipato. E allora ci venne in mente una bella idea, siccome gli articoli, il reato è prescritto, lo possiamo raccontare senza problemi, cioè avevamo accesso a certi assegni falsi, cioè, e quindi adesso può risultare incredibile, però allora uno andava a un ristorante di lusso. In un ristorante di lusso cosa si pagava? 5.000 lire a testa, perché alla campana si pagavano 500 lire, questi erano i prezzi. Noi andavamo con 100.000 lire, un assegno da 100.000 lire. E lui, che c'ha un aspetto molto più rispettabile di me, andava e diceva, ma guardi, il venerdì sera, no? Sono rimasto con questo assegno, se l'accettate, però sono 100.000 lire, se ci potete dare il resto. Ristoranti di lusso, e ci davano il resto. Cioè, e abbiamo raccolto... tipo 1.000.000 di lire, che era una fortuna, cioè un operaio guadagnava 150.000 lire. Abbiamo fatto tutti i ristoranti di lusso di Milano in una settimana più o meno. Beh, si mangiava, sì, perché si mangiava bene. Sì, si mangiava bene. E quindi abbiamo, lui ha sventolato, perché poi loro due erano una coppia, però siccome lui combinava meglio con l'altra amica, la Marilena Moretti, la donna di Carlo Ventura, che poi fece il documentario, allora lui faceva coppia con la Moretti. Del documentario? Sì. Era incinta, era questo il motivo per cui prendeva benissimo. Ah certo, era anche incinta, è vero. Era incinta, per cui, insomma, sia per i ristoranti che per il padrone di casa era perfetta. E quindi eravamo la coppia, eravamo Fulvia, io, Marilena e Maurizio, e ci siamo fatti praticamente l'affitto di un anno, e così è nata la comune di Via, oltre a mangiare bene, era il sasso, bene, forse è meglio non citare, perché magari esistono ancora, poi si incazzano, non ci possono arrestare, però ci possono uccidere. Però, comunque così è nata la comune, e quella casa lì, diciamo, io a posteriori, sono passati 50 anni, lì c'è Flavio Vida che la frequentava, fra gli altri, e era in effetti in qualche modo un nucleo che raccoglieva molte persone, cioè diciamo quello che si direbbe adesso la Milano Underground, insomma, passava da lì, no? Cioè un sacco di gente, qui li menziono anche adesso, no, non voglio... annoiarvi con una serie di nomi, però nel libro ci sono, e quindi è stato un momento importante. La nostra vita si svolgeva secondo le norme comuntiste, vivendo di notte, facendo uso sconsiderato di tutte le sostanze peggiori per il fegato, che non nominerò per stendere un penoso velo su questa storia. E poi, siccome eravamo anche un po' militanti, che a Paolo non gli piace la parola, per uno che va in giro a distribuire i volantini, insomma, non so come chiamarlo, ma noi facevamo questo, davamo i volantini. Ma davamo i volantini prima di andare a dormire, perché le fabbriche, la gente andava a lavorare alle 6 del mattino, noi più o meno quella era l'ora in cui andavamo a nanna, prima di andare a nanna andavamo a distribuire i volantini e poi scappavamo a gambe levate, perché arrivavano i sindacalisti della CGIL, quegli altri che ci odiavano, come si chiamano, i trotskisti, che ci odiavano particolarmente, se mi scappa, quelli di Silverio Corvisier, che sì. Gruppo, sì, ma avevano un gruppo, lo nomino qui, adesso non mi ricordo, ma fa niente, no, Lotta Comunista erano buoni. Era Bordini, sì. No, Lotta Comunista siamo andati a finire con Maurizio a sentire Bruno, vi ricordate chi è Bruno Fortichiari? Cioè, nessuno se lo ricorda. Nessuno si ricorda di Bruno Fortichiari. È uno dei fondatori del PC, poi è uscito insieme a Bordiga, poi era finito. Era un signore che ci diceva, ma quando Lenin mi ha detto così, io mi sono girato e ho detto a Stalin, ma non è possibile. Sì. Ecco, no. Cioè, lui raccontava in questi termini qua, aveva quasi 100 anni, sì. Quando l'abbiamo visto noi. Sì, e poi diceva, perché gli chiama, lei ha conosciuto Panneco? Sì, ma Panneco non capiva un cazzo perché era astronomo, stava sempre sulle stelle, e cose così. E quindi, niente, poi l'esperienza, adesso non la faccio molto lunga, si è esaurita come doveva essere, cioè noi avevamo scommesso tutto su una rivoluzione che non c'è stata, come tutti i presenti sanno. E quindi noi stessi in realtà, cioè questo gruppo che è sorto con queste caratteristiche che sto caricaturizzando, che nel libro Paolo lo dice molto meglio, era a sua volta il prodotto di quel grande movimento sociale, cioè, per cui adesso non so, quelli che sono giovani è difficile che riescano a capire, in termini proprio esistenziali, si può leggere sui libri, però in quel periodo lì, cioè, sì, dice la rivoluzione, sì, non è per domani, sarà a 2 o 3 anni, una cosa così, no? Cioè, no, non è che si pensasse in maniera differente, e si pensava così perché c'erano milioni di persone che magari non in maniera così delirante come noi, però credevano che una trasformazione radicale fosse all'ordine del giorno, e in effetti l'Italia, il nostro bel paese, è in tutti i paesi occidentali probabilmente quello che in quegli anni lì è stato più vicino a un movimento realmente rivoluzionario. E quindi, mentre il movimento si esauriva, ci siamo esauriti anche noi. E quello che, cioè, esauriti magari non è la parola, alcuni si sono esauriti in effetti, e alcuni si sono sconvolti in maniera indecente, altri come me sono andati via, cioè io sono andato prima a finire negli Stati Uniti, poi in Messico, dove sono rimasto, però appunto, come ho detto al principio, adesso concludo, la cosa interessante è quello per cui sono contento, realmente sono contento stasera di essere qua, sono contento perché per me, ripeto, è un atto di amicizia, e in effetti, cioè, ci sono due cose che bisogna dire di noi, cioè all'epoca eravamo calunniati, considerati provocatori fascisti, cioè ce ne hanno dette di tutti i colori, vabbè, diciamo che il nostro slogan si prestava a essere poi criticati un po' duramente, contro il capitale, lotta criminale, però nessuno è venuto fuori infame dal nostro gruppo, non c'è una spia, non c'è uno che se l'è cantata, non c'è uno che si è pentito, infatti il mio testo si chiama Noi non ci siamo pentiti. E quindi questa è una cosa di cui io vado orgoglioso, cioè di essere, è per quello che io mi sento, la mia identità si fonda su questa esperienza qua. E poi appunto, siccome non avevamo niente da rimproverarci, ma piuttosto in tutti questi anni abbiamo sempre celebrato l'amicizia tra di noi. Poi vabbè, a un certo punto, per una serie di ragioni che non racconto, io sono tornato a vivere in Italia, era l'epoca del movimento zapatista ed è l'ultima cosa che Paolo ed io abbiamo fatto insieme, no? Ci siamo intrippati in questa storia che, su cui también si potrebbe stendere un velo pietoso, perché non è andata come pensavamo, però comunque ci siamo divertiti, cioè noi... Una cosa è giusta tra quelle che dice Paolo, come sempre lui è un estremista, esagera nella sua critica al militantismo, però noi tutte queste robe qua che abbiamo fatto in questi anni le abbiamo fatte perché ci siamo divertiti, non è che uno spirito religioso ci muovesse non so, alla solidarietà con gli zapatisti o nel mio caso altre storie che ho avuto in Guatemala, eccetera, così la vita ti alla maniera situazionista ti arriva e tu o sei lì o non ci sei, e se ci sei magari ti diverti, e se non ti diverti pazienza, però è un'esperienza che non si conosce, cioè si è scritto tanto su Potere Operaio, vabbè, quelli erano più tosti, avevano letto più libri e hanno scritto 70.000 testi eccetera eccetera. La nostra esperienza, grazie al lavoro di Paolo, grazie anche a Lud, grazie alla sua profondità, alla sua capacità riscoperta di scrivere, perché Paolo, io gli facevo due palle così per anni, gli dicevo ma tu devi scrivere, e non scriveva, e alla fine anche grazie a che Gilda lo bacchettava, alla fine si è messo a scrivere e la sua scrittura è potente, cioè io l'ho riletto, non è che l'ho riletto, l'ho letto sto libro qua, che non, evidentemente non lo conoscevo, a volte mi mandava in effetti, però adesso vedere l'oggetto libro così, l'ho appena visto anch'io, no? Leggetelo, cioè vale la pena. Io pensavo, il primo su Lud, francamente l'ho trovato pesantino, invece questo qua ha avuto l'accortezza, che gli eravamo detto varie persone, di dividerlo anche in paragrafi, capitoletti, per cui si può leggere l'oggetto, si può leggere o tutto di fila, oppure si può aprire il libro e vedere il tema, non mi interessa, me ne interessa un altro, e si legge quel tema lì, ed è un bel contributo, e con questo concludo, grazie a Paolo, insomma abbiamo questo strumento della memoria. Molte grazie. Allora, con questo brano vi prego di seguirmi, non perché sia complesso, ma perché è colmo, decisamente colmo. È strano, ma se non mi seguite, alzate una mano, dite una cosa e ricominciamo, perché è bello. Però serve del tempo, della lentezza. Se l'alienazione è quel senso di alterità incolmabile che ci separa dal prodotto della nostra attività, con l'instaurarsi del dominio reale, nel momento in cui il proletario moderno diviene produttore insolito dell'intera società, è dall'intera società che si ritrova separato e progressivamente escluso. Laddove solo alcuni riescono a conservare coscienza di questa perdita, altri approdano anima e corpo nel mondo delle parvenze, e non solo cessano di avere una relazione materiale con il mondo, ma anche con se stessi, rendendosi interamente prigionieri della ragnatela delle immagini. La tentazione di accusare di tutto questo la televisione, recentemente i social, è forte, ma ingannevole. La televisione siamo noi nella misura in cui siamo massa. Siamo spettatori. essa ci riflette sinceramente, senza che la nostra immagine ne esca deformata, perché ben prima di fare questo ci ha resi deformi, ha reso deformi le relazioni che intercorrono fra noi, ha svuotato la nostra dignità, che è sorella gemella della libertà. Lo spettatore non ha alcuna libertà, se non quella di chiudere gli occhi. Militante è in fin dei conti, non solo etimologicamente, fratello gemello di militare. Il militantismo può essere interpretato come separazione fra attività politica e costruzione complessiva delle proprie relazioni, come opinione attrezzata, come adesione laboriosa a un programma. Per questo motivo, nel momento in cui si era perduta la rivendicazione alla totalità, qui diventa complicato, torno indietro, scusate. Per questo motivo, nel momento in cui si era perduta la rivendicazione alla totalità, che era sfuggita dalle nostre mani, le mani di tutti, non solo di quelli che poi sarebbero confluiti nei gruppuscoli portando le loro passioni all'ammasso, questa rivendicazione alla totalità, che era ben più e di meglio della totalità delle rivendicazioni cui venne poi circoscritta. Ecco, questa rivendicazione era presente nel momento del 68 e del 69, perché le forme alienate non potevano che prendere il sopravvento. Alla maniera delle figurine dei calciatori, le immagini di Lenin, Marx, Mao, Castro, Stalin, Trotsky, perfino lo Sbirro Beria, Gramsci, furono contese fatte a brani da torme di beoti che si trovavano ad affrontare questioni normalmente minuscole a suon di citazioni. Allora io, riprendendo un attimo lo stile di Claudio, spiego banalmente come sono arrivato a Claudio e agli altri. Noi siamo rimasti tre o quattro di quella storia, e quello che io ho da dire questa sera è di cercare di mettere in luce tutte le situazioni che abbiamo attraversato e di non essere in nessun modo agiografico nel ridurre qualunque idea di eroismo dentro a questi percorsi. Il fatto che siamo rimasti in pochi fa sì che quello che dico io sia la metà di quello che voi sentite, perché se fossimo in 20 sarebbe il 5%, per cui ridimensionate pure quello che io dico, che apparentemente sembra una grossa parte di quello che è stato. Sentendo le cose che vengono lette e avendo letto una parte del libro, chiaramente si può essere d'accordo oppure in disaccordo con quello che c'è scritto, ma si sente quell'afflato che Paolo è riuscito a inserire. Non è detto che con quelle cose ci si trovasse d'accordo, che non mi trovassi d'accordo io, che non si trovassero d'accordo altri, perché comontismo era qualcosa di diverso secondo me, o comunque qualcosa che a me è appartenuto in un modo diverso, e non posso non dirlo. Come sono arrivato lì? Sono arrivato tramite le situazioni liceali dell'epoca, le occupazioni, le manifestazioni, ed ero sempre congiunto con Roby Ginosa, perché eravamo in classe insieme e ci si muoveva molto in quella classe. Era una classe particolarmente ricca di proposte e di attività. E pertanto noi poi siamo entrati in LUD nel 69 e siamo stati lì un anno, non di più. abbiamo frequentato con Paolo e lì ho conosciuto Paolo e successivamente ci siamo separati per un periodo e poi ricongiunti dopo esserci incontrati. Quello che ho da dire riguardo al fatto che questo libro, che mi è piaciuto molto avere in mano, si chiami Comontismo, è che è limitativo leggere uno dei comontisti che spiega cos'è il comontismo, cos'è stato il comontismo. Avrei visto chiaramente con maggiore entusiasmo il fatto che fosse stato scritto attraverso delle interviste, per esempio, a tante persone che erano passate di lì. Un po' come si trova nel libro Storia di potere operaio, La generazione degli anni perduti, in cui è stata fatta questa operazione. Vero è che però questa operazione poteva essere fatta solo all'inizio degli anni 90, avrebbe dovuto venire in mente all'inizio degli anni 90, perché dopo, a uno, si è stata una moria di persone e pertanto sarebbe comunque stato parziale il fatto di intraprendere questo tipo di percorso. Allora, negli anni 80 e 90, non è venuto in mente a nessuno di farlo, per cui sarebbe stato impossibile. Rimangono comunque delle cose da dire, perché secondo me del comontismo occorre anche dire che l'iniziativa di raccogliere questo materiale e rievocare la presenza nel quadro politico all'inizio degli anni 70 del Novecento di un gruppo di persone raccolte intorno a un ideo di mondo e di vita che poi hanno definito comontismo, con un neologismo che trova come unica giustificazione il fatto di essere ancora comunisti nonostante che non si condivida l'espressione comunismo che è sorta in molte realtà nazionali, merita comunque un plauso più che altro per aver sottratto al macero una serie di iniziative editoriali che adesso invece compaiono nel secondo tomo e all'oblio un'intensa serie di relazioni umane finalizzate fra l'altro ad attuare, come si legge nel testo, un modo di essere, non solo una metodologia di ricerca e una modalità di analisi critica e di comunicazione. Ciò detto, rimane un vuoto centrale che non fu mai colmato allora e non si riesce a colmarlo neanche ora coi ricordi. Ma se anche ognuno di noi avesse portato i suoi ricordi e avesse risposto a quelle interviste come io avrei preferito che ci fossero state, sicuramente non avrebbero collimato mai, perché era tipico di quell'ambiente, era tipico di quella riunione di persone che ci fosse una difficoltà nel creare un insieme. Era un insieme che non poteva essere rappresentato, ma che si viveva all'interno in una dialettica continua. In questo si potrebbe dedurre che vi fosse una vivacissima produzione intellettuale e una varietà di punti di vista che la rifletteva. Non credo neanche che sia così. Cioè, si può affermare che intorno a idee dominanti si radunassero soggetti che si caratterizzavano per la propria capacità di essere liquidi, aggregandosi e disaggregandosi per ogni differente argomento. Non si può sostenere che vi sia stata, d'altra parte, un'ampia produzione teorica. Non è vero neanche questo. E ve lo dice anche nel suo ottimo lavoro Leonardo Lippolis nel secondo tomo, che conferma proprio questo. In verità, come è stato accennato nel testo, le differenti modalità di pensiero non potevano essere coesive, così come invece lo è stato in parte il modo di vivere. Molto differente anche la tipologia caratteriale delle persone, che condizionava principalmente l'interpretazione diversa di essere comontisti. L'aggregazione primigenia 71-72 Ponte a Egola e Firenze, di cui ha accennato già Claudio, evidenziava un'organizzazione e uno stile di relazione fortemente gerarchica, seppure del tutto informale come gerarchia. un padre padrone, presunto detentore di idee forti, proposte nelle prime pubblicazioni che avevano preceduto la nascita di comontismo, dettava uno stile, definiva ciò che era conforme al pensiero rivoluzionario e quanto invece doveva essere evitato. Promuoveva un comportamento aggressivo, macio, e individuava il comportamento femminile utile ad assecondare il mantenimento di una comunità riverente allo stile che veniva proposto. Il capo e i suoi accoliti più fedeli si muovevano all'unisono, secondo il gradimento, grazie, e i gusti del capo, che aveva attitudine a entrare in conflitto, anche fisico, con chiunque ne potesse minacciare la supremazia. Più che di una modalità semplicemente maschilista o paramafiosa, si trattava di una riscoperta della legge della giungla, dove si faceva tabula rasa di ogni regola perché la regola era data di volta in volta dal comportamento del maschio dominante, del tutto simile a una comunità animale in natura intorno al maschio alfa. Solo pochi eletti potevano esimersi dalla quiescenza ed erano uno, forse due maschi, uno di forte carattere, arguzia e abilità manuali, di cui vi ha già parlato Claudio, Carlo, l'altro di esplicite capacità intellettuale, Valerio Bertello. Costoro non ne subivano le regole, ma garantivano di non proporsi in modo competitivo nei confronti del capo, sia per la frequente distrazione dalle tematiche più propriamente politiche dell'uno, cioè di Carlo, che per la mitezza di carattere dell'altro. Veniva formandosi una gerarchia informale in cui ciascuno traeva la propria legittimazione in funzione della prossimità al capo o alla sua donna. La donna del capo era un riferimento per tutte le donne. Era già presente in questa prima fase la tossicodipendenza del capo, il quale fondava le relazioni sulla soddisfazione della propria attitudine ossessiva al proselitismo. Chi è con me, chi non è con me, è contro di me. Pertanto, progressivamente, ciascuno che entrasse o si avvicinasse al gruppo storico, oltre a professare ascolto del capo, condivisione delle idee degli iscritti, che erano sparuti, romantici, vitalisti e in alcuni casi futuristi, doveva preferibilmente condividere i gusti sulle varie tipologie di sostanze e dipendenze. Dagli alcolici alla pentazocina, al cloridrato di morfina, mentre erano del tutto sottovalutate l'erba, l'hashish e gli allucinogeni. La provenienza sociale delle persone del gruppo, ma anche di molti supporter e satelliti, era prevalentemente la piccola borghesia relativamente benestante e il livello culturale era liceale e universitario. Facevano eccezione due o tre casi, considerati però emblematici, di ex operai con scarsa dimestichezza allo studio e alla lettura, perché erano veri operai. A dispetto delle idee propalate di rivoluzione, era fortissima la resistenza al cambiamento da parte della maggioranza degli adepti, che perpetuavano una ritualità di vita quotidiana dominata dal rifiuto teorico-pratico del lavoro e dalla necessità di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, la cui fonte erano in quel periodo le farmacie, sia per la scarsa disponibilità di sostanze nel mercato alternativo, perché era troppo precoce la questione, era una vera avanguardia. Nessuno si faceva, solo noi. Era una vera avanguardia, sia per i costi di quelle che stavano presenti nel mercato alternativo. L'acquisizione nelle farmacie induceva la necessità di ricette ottenute da medici compiacenti o dalla falsificazione e l'individuazione di farmacie meno rigide nell'allergizione dei prodotti. Queste dovevano essere numerose, non potendo essere messe alla prova consecutivamente, non potevi entrare nella stessa farmacia tre volte di seguito e neanche tre giorni di seguito. Ad ogni spostamento del gruppo era necessario disporre di una mappa di farmacie di zona, battendo l'area sistematicamente. La disponibilità di mezzi di trasporto era inevitabile per raggiungerle. Pertanto ogni proprietario di automobile era ben accetto al gruppo. Che ha raggiunto l'autonomia di movimento. Ha raggiunto l'autonomia di movimento acquisendo capacità nel furto dei mezzi di locomozione. Assolutamente sì. Divenuto pratica illegale comune con acquisizione di competenze e abilità tenute in considerazione nella ridefinizione gerarchica. La fonte di reddito del gruppo erano provenienze familiari. E il concorso di ospiti malcapitati che venivano prosciugati in nome della solidarietà e della condivisione rivoluzionaria. Poco dopo l'introito principale divenne il furto di libri, anche con risultati eccezionali e oggi impensabili, cui seguiva rivendita sistematica a ricettatori librai o in casi meno frequenti a privati che avevano commissionato titoli e edizioni specifiche. I proventi delle attività illecite erano consumati in piccola parte per il sostentamento, ma di più per l'acquisizione di droghe. L'alimentazione era trascurata, spesso preconfezionata, malsana, raramente prodotta in loco se non da rari cucinieri. L'igiene era ignota o addirittura disprezzata e la sua inosservanza era segno di adesione al gruppo e alle sue finalità. Era evitata in cucina, in bagno, a letto, dove la diffusione di infezioni della pelle e o sessualmente trasmesse era all'ordine del giorno, non solo per la promiscuità abituale e lo scambio di partner, ma soprattutto per l'inosservanza di qualunque regola di igiene. L'intera giornata era spesa per il ciclo di produzione e consumo e il gruppo rimaneva fuori casa molta parte della giornata, prevalentemente per farmacie o per libri. Tu dove sei andato oggi? Per librerie. A libri. Per libreria o a libri. A libri. Permettimi. Sì, hai ragione. Gli incontri, le riunioni erano abitualmente serali e successivi alla soddisfazione del consumo di stupefacenti. La giornata terminava a notte inoltrata, prima mattina, avendo proceduto nel corso della notte alla generazione di illegalità che godevano del beneficio dell'oscurità. E o a un ulteriore giro per farmacie. La mappa delle notturne facili era sempre disponibile. Lo stesso apprendimento della navigazione della città per coloro che non ci avessero vissuto prima e che arrivavano da noi era modulato dalla memorizzazione dei luoghi dove insistevano le farmacie. Per indicare un luogo si diceva vicino alla tale o a tal'altra farmacia. L'intolleranza per lo stile gestionale del gruppo, quello di Ponte Aegola, per l'arroganza, per la seriosità triste, per l'assenza di ironia e l'eccesso di sarcasmo e cinismo, per la coercizione latente o esplicita, per il machismo e la conseguente accondiscendenza rassegnata delle donne, più che la diversità di opinione sugli argomenti teorici, comunque presente, hanno prodotto la frattura insanabile fra due principali componenti dei comontisti, quella milanese e quella torinese, con scambio di due torinesi che si sono trasferiti fra i milanesi e un milanese trasferitosi espressamente a Torino. Paolo. La torinese a Milano è riuscita a mantenere la relazione sentimentale con un torinese che a tratti faceva capolino e il milanese torinesizzato continuava a incontrarsi di sfuggita con un milanese in segno di imperitura amicizia. Vi erano comunque differenze incolmabili fra torinesi e milanesi, anche a livello teorico e di linguaggio. in un passo di volantino del movimento martellista, cioè avevano sottratto la falce al manifesto del PC, era rimasto il movimento martellista. Prodotto da Deste e Eddi Ginosa, perciò precedente e prodromico all'esperienza comontista, cioè il fratello di Roby Ginosa, si dice, tutti pronti con le sedie, tenetevi alle sedie, non bisogna piangere i morti arsi vivi di San Vittore. C'era stata una rivolta a San Vittore, erano morti arsi vivi dopo aver dato incendio loro stessi a una cella, erano morti dei detenuti. Bisogna ardere tutti i nemici dai funzionari del capitale sociale, probabilmente il capitale sociale è riferito a una cooperativa, non so bene cosa voglia dire il capitale sociale, però comunque, ai preti, agli infami spie, ai lavoratori ciechi e assessuati. Fermi tutti. Non eravamo operai. Fermi tutti. Ai mestruati cronici di tutti i movimenti studenteschi. E sedicenti operai, ai burocrati e ai becchini del movimento reale. Ora, siccome c'era anche la rivoluzione reale, il soggetto reale della rivoluzione, io credo che la maggior parte fossero monarchici, perché se no ci sarebbe stata una roba repubblicana più che reale, perché il movimento reale voleva dire un cazzo, da un punto di vista, era un aggettivo regalato, non voleva significare nulla. Comunque, rendiamo la nostra lotta criminale, questo sarà l'assalto presente al mondo delle merci. Così concludeva il movimento martellista. Nel 1970 alcuni residui di Lud e i consigliari torinesi avevano scambiato per situazione rivoluzionaria Danzica e Stettino e la stessa Reggio Calabria. La prima era stata finanziata e architettata dagli Stati Uniti e dal Vaticano, la seconda ad opera dell''Ndrangheta in connubio con l'organizzazione fascista locale e con il MSI nazionale. Questo è stato Reggio Calabria. Ci saranno poi ex comontisti che nel 78 parleranno di insurrezione rivoluzionaria a proposito della presa del potere di Khomeini in Persia. Chi? Più di uno. Non sto a fare il nome perché nella fattispecie non vado. Vabbè. Nel volantino Torino in stato d'assedio si legge. Lo leggete perché tutti comprerete questo libro che ormai piace molto, per cui lo comprerete. E nel secondo volume leggete Torino in stato d'assedio, si legge: stupri e omicidi sessuali non sono altro che la risposta, che è umana, al piacere che è sempre stato negato. Secondo l'estensore dell'introduzione del secondo volume, del secondo tomo, questa frase avrebbe prodotto la rottura coi torinesi da parte dei milanesi. Indubbiamente non fu solo questa frase, ma questa frase, cioè, risultò assolutamente insopportabile. Lo stesso slogan contro il capitale, lotta criminale, a Milano ha trovato scarso riscontro. Cioè, l'abbiamo usato un paio di volte, però non eravamo lì tutto il giorno a raccontarla, ma lo stesso comontismo dalla primavera del 73 non venne più molto rivendicato come modo di definire la nostra situazione. Non venne condiviso neppure il contenuto del foglio murale L'Intrepido, che si occupava del gruppo 22 ottobre e di Mario Rossi, che aveva ucciso per incapacità e pressapochismo un portavalori. Il volantino liquida l'omicidio così: è morto per troppa voglia di lavorare. Penso che anche un pizzino di Provenzano avrebbe potuto scrivere la stessa cosa. Dovrebbero tutti essere sepolti quelli che difendono gli interessi del padrone. I fuorilegge sono i nuovi rivoluzionari. A Milano l'aggregazione in un unico appartamento, prima Ausonio e con partecipazione dei genovesi, poi in via Pecchio, aveva le caratteristiche di una comune, come ce n'erano a Iosa nello stesso periodo, anche se meno propositive da un punto di vista sociopolitico. Le peculiarità rispetto alla fase precedente erano quelle di una maggiore democrazia interna, dell'assenza di una figura di riferimento dominante, di una presenza femminile maggiormente autonoma, anche se non particolarmente incidente nell'elaborazione teorica. Inizialmente fulcro e vanto, forse meritato della fazione scissa. L'attività teorica era perciò ancora appannaggio dei maschi, mentre le femmine avevano un impegno più organizzativo. Sesso, droga e rock and roll, l'attività sessuale era quella tipica di ragazzi di 20 anni. Nel periodo storico della liberazione sessuale, in un ambiente laico, apparentemente debole nei pregiudizi morali, incline al superamento del privato e fortemente oppositivo alla privacy. Risultato, si scopava parecchio e anche in compagnia, ma era evitata la forma orgiastica, essendo saldamente dominante la monogamia, pur in un contesto di rotazione interna dei partner, ma in tempi distinti. Prima uno, dopo l'altro. La musica aveva fortunatamente un posto rilevante in casa e l'abilità di acquisizione di vinili espropriati ai grandi spacciatori milanesi come Ricordi e Buscemi consentiva di avere una grande varietà di scelta. Benché i preferiti fossero sempre Bob Dylan, Rolling Stone, Led Zeppelin e in generale il progressive rock o rock psichedelico. Non ballava nessuno, neppure le ragazze, che di solito ne sono inclini, forse perché le discoteche e i comportamenti che le caratterizzavano erano ostracizzati come luoghi di distrazione di massa da qualunque forma di pensiero critico, che poi era proprio così, di fatto. Ben presto, anche a Milano, la tossicodipendenza è divenuta la cifra del gruppo, benché qui, contrariamente a Firenze o Torino, ci fossero ben 3 soggetti, o forse 4, non dediti agli stupefacenti, e qualcuno solo marginalmente interessato. Ritmi e routine quotidiana sopradescritti divennero in pochi mesi lo standard della comune, ovviamente creando progressivi distanziamenti fra coloro che ne fruivano e coloro che non ne fruivano. Erano disponibili per tutti, invece, alcol, fumo di tabacco, fumo di THC, acido lisergico, psilocibina, etere. Solo per gli allucinogeni il moderato consumo era collettivo, mentre per le altre sostanze c'era una scelta ben definita. Chi consumava morfino simili non amava il resto, tranne il tabacco. Il consumo di alcol era anch'esso moderato, tranne che in circostanze molto festaiole. Persisteva una certa arroganza intellettuale, ma il clima era più sereno, anche ridanciano. I più erano poco inclini all'ironia, ma erano stati ridotti il sarcasmo e il cinismo, diffuso un sano scetticismo. La casa era molto frequentata, anche se gli abitanti fissi erano già 7 e c'era chi si fermava anche per settimane o diventava un frequentatore abituale, tipo day house. Pur non aderendo al progetto teorico, magari non condividendo interamente la quotidianità. Proseguiva invece lo stile inquisitorio e la ricerca da parte di alcuni della purezza teorica o della presa di posizione esplicita nei confronti delle proposte esibite. Per chi non evidenziava la propria posizione, fra parentesi, tu come ti collochi, o si smarriva nei meandri della supposta retta via, venivano allestiti processi politici che iniziavano abitualmente nel clima amicale di una moltitudine disposta intorno al camino, perché avevamo anche il camino in Pecchio e non stavamo male, per poi trasformarsi invece in un atteggiamento inquisitorio, gestito da 2 o 3 elementi rappresentativi dell'ortodossia, fino ad arrivare in alcuni casi alla formulazione di un giudizio di insufficienza, di trasgressione o di eresia, con conseguente allontanamento del soggetto dal gruppo, definitivo o fino a una manifestazione di autocritica convinta. Il roteare di satelliti intorno al nucleo centrale attutiva l'impatto dell'elaborazione critica teorica, essendo alcuni di questi molto attivi perché dediti alle anfetamine, ma non sul piano sociopolitico. Perciò niente affatto interessati alle discussioni più cerebrali e neppure intimoriti dalle loro conclusioni. Abbiamo affrontato quanto potesse influire sui ritmi e sulle tempistiche d'azione di comunicazione esterna il fatto che fosse una comunità prevalentemente di tossici, ma influiva anche sull'elaborazione di pensiero critico? A mio parere condizionava anche la produzione intellettuale nei suoi contenuti, in particolare nella disinibizione indotta dalle sostanze abusate, determinava un sentimento di potenza senza limiti che facilitava la radicalizzazione dei comportamenti e degli elaborati, consentendo proiezioni nel futuro immediato di sovvertimenti sociali che potevano essere solo auspicati, ma non trovavano rispondenza in uno sguardo più realistico dell'assetto sociale, già segnato dalla fase di riflusso del periodo sessantottesco, iniziata dal 70, ma della quale nessuno dei comontisti amava rendersi conto, aiutati dalla visione flu dell'esterno, favorita dall'ebbrezza. Non esisteva più un contesto potenzialmente insurrezionale che potesse supportare e amplificare proposte provocatorie. Noi, come diceva giustamente Claudio, avevamo soprattutto questa funzione provocatoria che trovava sempre di più una cattiva eco nel momento in cui si provocava. Etica, coerenza, continuità d'azione, di pensiero erano sicuramente inficiate dalle necessità primarie, fra cui il noto consumo. Dipendenza unica e totalitaria, accettata nonostante il rifiuto consapevole della dipendenza da qualunque consumo o abitudini borghesi, indotti dalla propaganda consumistico-capitalista. Il rifiuto delle altre dipendenze era reso possibile da un'elaborazione teorica che faceva riferimento alle proposte anarco-marxiano-francofortiane corroborate dagli enunciati della corrente artistico-politica situazionista. 72-73 inizia in Italia la fase della lotta armata e del braccio militarizzato della critica teorica. Un terreno molto scivoloso su cui non hanno saputo trovare postura adeguata migliaia di giovani, incentivati dall'inasprirsi del confronto e dall'arrocco delle forze conservatrici che, unitamente all'intervento esterno di strutture più o meno segrete straniere, hanno inserito dal 67 sul suolo italiano la strategia della tensione e del terrore, già sperimentata con vantaggio in altri contesti in cui il potere era stato militarizzato, vedi Brasile 64, Argentina 66, Grecia 67, Cile 73. I comontisti hanno accettato il dibattito, ma si sono discostati così dall'acquiescenza teorica che nella pratica quotidiana, rifiutando il passaggio dalla fase politica a quella militare. Le poche armi che sono circolate hanno sempre avuto una funzione marginale e mai sono state utilizzate in quegli anni per attività sociopolitiche. Questo non ha impedito che alcuni abbiano ritenuto necessario predisporre il terreno per resistere a una fase di scontro sociale più elevato, iniziando dall'accaparamento di fondi economici utili alla difesa e all'azione. Il salto di qualità nelle modalità illecite di acquisizione di denaro ha richiesto un'elevazione dei livelli di sicurezza, a fronte di un incremento della tolleranza al rischio. In quella fase, a preordinare operatività a maggior impatto economico, sono stati i componenti interni o satelliti che non facevano uso di droghe o diffidavano di poter rendere note le loro azioni ai tossici. Sono nati così, però, comportamenti improntati a segretezza, permeati da uno stile di sufficienza e autostima esibita, caratteristiche del comportamento malavitoso classico, lontane dal precedente atteggiamento inclusivo e propenso alla conoscenza e alla comunicazione. Il paradosso di questa fase è che l'unico delatore professionale presunto faceva parte del gruppo dei malavitosi e non di quello dei tossici, che erano invece stati considerati inaffidabili nel mantenere uno stile prudenziale. La fase di disfacimento del comontismo ha visto sul campo pertanto malavitosi e tossici, entrambi perdenti. I primi, vittime della propria insufficiente preparazione e della successiva scarsa motivazione, sono incampati in debacle che ne hanno fatto mettere in discussione la capacità e la necessità di fronteggiare il riflusso sociale, mantenendosi comunque fuori dalla logica militare e fuori dalle organizzazioni classiche della sinistra extraparlamentare, peraltro anche queste colpite da eventi e da limitazioni di spazio d'azione che ne hanno condizionato il declino. Vedi Feltrinelli, vedi Potere Operaio, vedi molti altri. I secondi, i tossici, sono entrati in buona parte nella spirale perversa dell'abbruttimento e di logiche commerciali a scopo di automantenimento della dipendenza, annacquate da azioni sociopolitiche esemplari, improvvisate quanto fallimentari, sorrette da un modello organizzativo fortemente misurato sul consumo. Le patrie galere si sono spalancate per qualcuno dei primi e per molti dei secondi, reiteratamente negli anni successivi. Le morti di comontisti o loro satelliti avvenuti in conseguenza di comportamenti irresponsabili nell'autosomministrazione, fonte di contagio infettivo, hanno costituito una lista davvero troppo lunga. Alcuni comontisti hanno goduto di una certa capacità di analisi critica radicale del pensiero contemporaneo e di formulazioni teoriche abbastanza originali. Sono vissuti in un contesto sociopolitico difficile, anche se molto propositivo, hanno creato i presupposti per caratterizzare la propria presenza autonoma nell'area di riferimento attraverso scritti o interventi riconoscibili. Hanno vissuto intensamente il presente con evidente consapevolezza del passato, e non altrettanta lungimiranza. Sono stati presenti nel loro tempo con un impegno relazionale, una disponibilità a concedersi al mondo, ma non si possono tacere le modalità di vita che segnavano il loro divenire, preconizzandone il futuro, né le ambiguità fra slogan enunciati e vissuti che hanno definito il loro percorso, così come la pochezza di produzione teorica e l'insufficiente preparazione con cui tale produzione è stata affrontata. Io ovviamente ho finito e ho tracciato un non si poteva non dire. Poi il resto esiste, cioè il primo tomo del libro esiste, l'introduzione di Lipolis fatta molto bene su come è stata la storia, ben dettagliata anche con documentazione, esiste, ma quello che secondo me non si poteva non aggiungere è quello di cui ho parlato. Vi ringrazio. Mi hai demotivato. Allora chiudiamo con l'ultima lettura. Dopo questa mi vergogno un po' a leggere, secondo me dovevi leggere tu tutto, però vabbè. Allora, rivoluzione e insurrezione. Il fine di una rivoluzione è appunto evadere dalla società della necessità e ancor di più dalla necessità della società. Necessità che per millenni non erano mai comparse, ma che adesso pretenderebbero di essere considerate eterne. La nostra è una società fondata sulla proprietà e sullo scambio, perciò conviene farsi pagare e chiudere la porta a chiave. Se non lo fai, se dovessi provare a sottrarti individualmente, otterresti unicamente di farti vaso di coccio fra vasi di ferro e null'altro. Infatti, per ottenere l'adesione dei sudditi, il capitalismo deve usare meno violenza di qualsiasi socialismo, nel quale evidentemente le buone intenzioni di chi sta sopra si convertono in cattive condizioni di chi sta sotto. In sostanza, fatte le debite distinzioni da luogo a luogo, da momento a momento, la rivoluzione è sempre insurrezione, cacciata dalle strutture dell'alienazione, del potere separato, instaurazione dei luoghi di costruzione collettiva della libertà. Lo si vede in Francia nel 1789, nel 1830, nel 1848, nel 1871, in misura abbozzatissima pure nel 1968. in Messico fino al Chiapas Zapatista, in Russia nel 1905, nel 1917, in Ucraina dal 1918 al 1921, in Ungheria nel 1919 come nel 1956, in Germania dal 1918 al 1923, nell'attuale Algeria orientale, dove c'è rivoluzione, c'è autogestione. E aggiungo, in considerazione della natura totalitaria della presa capitalistica sul presente, autogestione generalizzata, estesa cioè a tutti i campi della vita. La capacità degli individui di traversare un tale processo è paragonabile a una prolungata apnea, via dai gas mefitici della merce, ma non ancora approdati all'aria pura della libertà. E quindi i tempi di questa traversata richiedono di essere rapidi, perché alla fine altrimenti sarà la stanchezza a prevalere. A questo circolo vizioso nessuno ha saputo dare ancora risposta. Ma occorre riconoscere che il burocrate dimostra regolarmente di disporre di una riserva supplementare di fiato, o forse di essere divenuto integralmente anaerobico, alla maniera di un botulino sociale. Vediamo, vediamo se riesco a tirare sul morale. No, tutto quello che ha detto è vero. È come il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Cioè, io ho dato una versione buonista di questa storia qua. E lui in realtà non l'ha vissuta esattamente come la sta raccontando adesso. Cioè, così come Paolo non l'ha vissuta come la racconta, come è normale, no? Cioè, è una riflessione, nel senso che lui era più presente in tutte queste storie. Certo, lui non si faceva a differenza degli altri. Però, allora, due cose voglio dire. Uno è che questo spirito tribale, io non ho insistito, però era presente ed è come, sono completamente d'accordo con quello che dice Maurizio. Noi di Milano abbiamo rotto con i torinesi perché non sopportavamo questa storia qua. Detto questo, non si può neppure ridurre l'avventura torinese, diciamo, ai deliri di potenza di Riccardo d'Este, il quale peraltro indubbiamente non è stato solo questo capo tribù tanto vilipendiato che adesso si è definito in questo modo, no? È un personaggio complesso che aveva una personalità dirompente, era molto più grande di noi, lui era del 44, io avevo 8 anni di meno, lui 6 di meno. Aveva un'esperienza carceraria dietro di sé, cioè aveva tutta una storia che noi non avevamo e che neanche altri torinesi avevano, e quindi in parte era naturale questa preponderanza e questa figura del leader, però lui ci marciava sopra, è vero, e questo ha fatto sì che il gruppo si sia rotto dopo Firenze. Però questo stesso spirito tribale, ben descritto anche se in termini tra il tragico e il caricaturesco, che caricaturale, come si dice? Giusto, rale. Ecco quello. Non era solo quello, cioè, era anche questo autentico bisogno di rottura. Cioè, per esempio, il fatto di andare a vivere tutti insieme, cioè, presentava questo rischio qua che c'è stato e che abbiamo vissuto, no? Però indicava un autentico spirito di ribellione che è tipico dell'epoca. È vero che è tipico dell'epoca, l'ha sottolineato Maurizio, c'erano altri comuni, però la nostra esperienza è quasi unica nel suo genere, proprio per gli aspetti che lui ha sottolineato, che non sono necessariamente positivi, però che hanno dato una originalità che non è non si può vedere solo nei termini negativi che rappresenta, perché anche quello che ho detto io è vero, cioè è anche quello che scrive Paolo è vero, per cui è un'esperienza complessa. E in questo, quindi il suo intervento è giusto, perché non bisogna mitizzare, soprattutto non bisogna mitizzare Paolo, poverino, perché si starebbe rivoltando nella tomba se lo facessimo, no? E quindi il suo intervento, io ho insistito perché lui venisse, sapevo perfettamente che avrebbe, perché ci conosciamo da 50 anni, e fra l'altro avevo anche letto, me l'aveva mandato il suo testo, è importante la sua testimonianza, innanzitutto perché lui è stato parte del gruppo e quindi ha diritto di dire quello che pensa, e in secondo luogo perché aiuta a capire anche che era un gruppo che aveva questi aspetti qua, ce li aveva, no? Lui ha sottolineato di meno le cazzate che ha fatto lui, ma queste le racconto un altro giorno perché non vorrei mettervi in imbarazzo. E comunque niente, questa credo che grazie, diciamo, all'introduzione storica di Leonardo, diciamo, la mia evocazione anche abbastanza colloquiale della nostra esperienza e le importanti riflessioni chilometriche di Paolo nel libro e la testimonianza di Maurizio aiutano a capire che si è trattato di un'esperienza con molti limiti, ma anche che ha espresso una radicalità che altri gruppi non avevano, perché come dice Paolo da qualche parte nel libro, comontismo inaugura la critica della vita quotidiana come il nuovo fronte della lotta umana. E questo è vero, perché quello che noi ci proponevamo di fare era quello, per esempio, che i situazionisti avevano detto, però che si guardavano bene dal fare, perché erano tutti personaggi che vivevano al massimo, si incontravano nelle bettole e poi scrivevano a casa loro testi fondamentali, per carità, meno male che li hanno scritti. Noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di metterli in pratica, abbiamo fatto un sacco di cazzate, abbiamo preso i nostri desideri per realtà, che era uno slogan, però noi poi abbiamo esagerato nel prendere come tali, no? Però è un'esperienza comunque che merita di essere conosciuta, quindi adesso non la voglio menare oltre, però io sono contento che lui abbia, a parte gli scherzi che può averci depresso la sua descrizione, però insisto, è parte di questa storia, era importante che lui dicesse la sua. Non so se qualcuno ha qualcosa, se no andiamo a dormire, andiamo a farci una pizza, una pera no, meglio di no, io non mi faccio da mo, eh. Cioè, era uno spirito gregario quello che ci aveva indotto, che era proprio quello che lui critica e che lui aveva ragione a criticare anche allora, e che è stato durissimo criticare per 50 anni la stessa cosa. Sì, è una roba da smarronarsi all'infinito. Appunto. Aggiungo solo una piccola cosa, che allora lui parla del testo di Paolo come chilometrico, eccetera. Chi conosce Paolo sa che in realtà, chiacchierando di queste cose, in tanti anni si sono fatte tantissime risate, proprio perché venivano messe anche in luce tutta una serie di quasi barzellette, cioè momenti aneddotici, eccetera, eccetera, che purtroppo, e questo è veramente stato causato dalla sfortuna della sua salute, che non rientrava, non tornava a posto, perché la nostra intenzione sarebbe stata quella di completare il tutto con aneddoti che in parte, in buona parte, si ricordavano e dei quali abbiamo spessissimo fatto un sacco di risate insieme. Però ecco, il fatto che ci fosse uno sguardo anche molto molto ironico su quello che ci si è ritrovati a fare, e anche con una, invece che, ecco, una cosa importantissima che Paolo a un certo punto dice, che la vera guerra da dichiarare è contro i sensi di colpa. Quindi non bisogna menarsela su quello che si è o non si è stati o non si è stati. La leggerezza di Paolo in ogni situazione, io l'ho visto sempre trovare il modo di farti tornare a sorridere, a volte anche a ridere, sinceramente. Ci siamo fatte di quelle risate anche proprio nei momenti più disperati, perché quello è rivoluzionario. Trasformare un momento di disperazione in un momento di gioia, di rivolta contro la sfiga, perché questo mondo è un mondo sfigato, la rivoluzione no. La rivoluzione è un momento d'amore, di gioia, che butta tutto per aria, proprio è un gioco. Quello che Paolo è stato per me, l'occasione di restare bambina e adolescente per sempre. Noi siamo stati tutta la vita giocando. Questo io vi auguro di fare anche per voi stessi. Prendetela, come diceva Huxley, tesoro con leggerezza, con leggerezza. Quando una volta parlando con Mario Lipolis, che è un carissimo amico, dolcissimo, anche lui apprezzava tanto l'umorismo di Paolo, che ha delle radici veramente antiche della sua famiglia, della sua terra, eccetera, e mi ha detto: certo sarà difficile per te senza la sua lievità, senza la sua capacità, e mi ha detto: devi fare tutto tu. Quindi chi non ha più una persona vicino di questo livello che riporta il sorriso, come tutti noi spero abbiamo avuto nella vita, ce la dobbiamo incorporare dentro di noi e imparare quest'arte. Perché l'arte di portare il sorriso, la gioia, è la rivoluzione. La felicità per tutti, dappertutto, è la rivoluzione. Non c'è un'altra felicità. La vita come avventura di ricerca libera della felicità. Questo non so altro aggiungere.